Before we continue with the dialogue, here are some new words and phrases. As usual. Ascolti l'italiano, poi l'inglese, poi di nuovo l'italiano e ripeta. Shall we begin? Cominciamo? Sì, cominciamo. Sicura. Sure. Sicura. Può? Can you or you can? Può? Può controllare? Can you check? Può controllare? Certo. Sure. Certo. Come si scrive? How do you spell? Come si scrive? Cognome? Surname. Cognome. Giusto. Right. Giusto. Meno male. Luckily. Meno male. Nessun problema. No problem. Nessun problema. Now test yourself on those words and phrases. Listen to the English equivalent, then say the Italian. After you hear the correct answer, repeat it in the second pause. Here's the first one. Sure. Sicura. Can you or you can? Può. Can you check? Può controllare? Sure. Certo. How do you spell? Come si scrive? Surname. Cognome. Right. Giusto. Luckily. Meno male. No problem. Nessun problema. How did you get on? If you had any problems, review the section and then test yourself again.